Questa notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Che cosa vorrà fare dopo e se... Vorrei fare il giornalista. Questo... Esclude di candidarsi in politica? Mai. Se sono stato chiaro, mai. No, mai. È vero, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che molti hanno giurato e spergiurato che mai sarebbero scesi o saliti in politica a seconda dei punti di vista. E stai sereno di qui, stai sereno di là, però insomma, forse di Marchionne per il momento possiamo fidarci. Era oggi entusiasta alla presentazione, al debutto della Ferrari in borsa a Milano, oggi era anche in Piazza Affari, ed ecco il debutto di Effetto Notte anche in questa nuova annata del 2016, sfidando io una bronchite perniciosa. Eccomi qui per anticipare anche la Befana, sono cercato di arrivare prima per tenervi costantemente aggiornati su quello che succede durante il giorno a livello mondiale, a livello nazionale. Come sempre vi ritrovate la sera questo resoconto più o meno puntuale, scrupoloso di quello che è successo appunto a livello internazionale e a livello italiano, e poi come sempre sapete tanti ospiti per cominciare a snocciolare diversi argomenti, entrare nel cuore di vari temi. Per esempio oggi, a parte questo come è iniziato per voi questo 2016, tra non so se l'avete letta questa cosa scopriamo che il DAS che abbiamo manipolato, questa materia grigia che non è il cervello ma è proprio una specie di plastilina, vi ricordate negli anni 70 ci abbiamo giocato tanto, almeno quelli che hanno una certa età. Scopriamo che c'erano delle tracce di amianto, però sembra che non ci sia per forza rischio per chi ci ha giocato, bambini, insegnanti, e poi questa nuova crisi internazionale di cui sicuramente non sentivamo il bisogno, tra Arabia Saudita e Iran, con tutte le implicazioni che poi vi racconteremo. E fra l'altro partono invece, per quelli che sono lì ai blocchi di partenza, in attesa dei saldi domani in tutta Italia. Già oggi qualche regione ha cominciato a fare questi sconti, da domani partono in tutta Italia. Come evitare le fregature lo saprete qui in Effetto Notte con l'ospite che ci sarà più tardi, e poi ci occuperemo anche di meteo, soprattutto per i più fortunati che magari stanno ancora facendo il ponte della Befana. Ma adesso io direi tra pochissimo di iniziare con i titoli, però anche questa volta, anche la prima puntata del 2016, voglio lanciarvi un tema. A proposito di migranti, avete sentito che il Comune di Milano ha predisposto un bando per selezionare, per creare un elenco di famiglie a Milano disponibili ad accogliere i profughi, coloro che sono richiedenti e titolari di protezione internazionale, e il Comune offre un rimborso spese di 350-400 euro mensili. Sì, lì subito arriva però la critica durissima del centrodestra, che parla di una iniziativa indegna, di una mossa da campagna elettorale, di discriminazione nei confronti degli italiani poveri. Voi che cosa ne pensate? Come sempre lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte per voi, per i vostri commenti, oppure gli sms al 349-238-6666, 349-238-6666, o pagina Facebook di Effetto Notte. Cosa ne pensate di questa iniziativa? La giornata nera dei mercati, la Cina affossa le borse mondiali, quelle europee ripartono con il profondo rosso, e per Wall Street il peggior inizio dal 1932, Milano chiude a meno 3,17% nel giorno in cui a Piazza Affari sbarca la Ferrari. La crisi tra Arabia Saudita e Iran è scontro aperto, per ora con le armi della diplomazia, la Russia si propone come mediatrice, gli Stati Uniti chiedono ai due paesi di non infiammare la regione. Migranti, Svezia e Danimarca riavviano i controlli al confine, Berlino lancia l'allarme all'Europa, Schengen è in pericolo. Lo scandalo Volkswagen, gli Stati Uniti fanno causa al gruppo tedesco. La donna morta di parto a Torino, per la ministra Lorenzin non emergono responsabilità dell'ospedale Sant'Anna. Caso Cucchi, minacce al carabiniere mostrato da Ilaria Cucchi su Facebook, denuncia così il legale del militare, e la sorella di Giuseppe Uva fa come Ilaria. Cinema Quo Vado di Checco Zalone da record 22 milioni di euro di incassi in 3 giorni, e stando alle previsioni Quo Vado sorpasserà anche l'incasso di Star Wars Il Risveglio della Forza. Calcio ufficiale, Real Madrid esonera Benitez, al suo posto arriva Zidane. Partiamo Partiamo quindi con questa giornata funesta per le borse mondiali, l'Unione Europea che brucia 264 miliardi, per New York peggiore apertura dal 1932, Milano avete sentito chiuso a meno 3,17%, a quanto pare la Cina spaventa l'economia globale e la sindrome cinese torna a farsi sentire sui mercati e a peggiorare il quadro alimentando l'incertezza ci sono le tensioni in Medio Oriente tra Arabia Saudita e Iran e tutto questo succede, di questo parleremo più tardi, vi dicevo, per capire quali sono le dinamiche che provocano questi rovesci delle borse e in cui sono implicate appunto la Cina, vedremo in che senso e anche come contano nello scenario internazionale e sui mercati Arabia Saudita e Iran, questa tensione che c'è tra queste due nazioni. Tutto questo, dicevo, nel giorno in cui la Ferrari è sbarcata a Piazza Affari, è iniziato l'anno del ritorno in vetta, la squadra c'è, è forte ed è in corsa, così ha detto il presidente di Ferrari Sergio Marchionne, parlando del futuro in Formula 1 di Ferrari, proprio la Borsa di Milano. Da quando abbiamo annunciato la scissione di Ferrari da FCA è passato poco più di un anno con la prima quotazione oggi sul mercato telematico di Milano. Si potrebbe pensare che così si è chiuso un percorso. La verità è che si apre un altro importante capitolo della storia della Ferrari. E ospite d'onore al debutto di Ferrari in borsa era il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Finalmente l'Italia c'è, Matteo Renzi non perde la verve ottimistica nel giorno della quotazione di Ferrari in borsa. Una quotazione che vede come un messaggio il nostro più grande alleato è la globalizzazione, se ci mettiamo in pista siamo i primi al mondo. Certo, un grande paese può attraversare momenti che non vanno, ma si può ripartire, così il Premier. Penso anche che questo sia il momento nel quale l'Italia debba smettere di giocare con gli alibi. Anche in queste ultime settimane leggo in tanti che dicono che la vitalità del nostro paese deriva da fattori esterni. Credo che fattori esterni è il nome che molti danno alla pigrizia, alla propria pigrizia. È un alibi spaventoso dietro al quale si nasconde che cosa? Il tentativo di giustificare le mancanze del passato. Il 2016, continua Renzi, vorrei che fosse l'anno in cui smettiamo di recuperare i ritardi e cominciamo a correre più forte degli altri. Promette le unioni civili, il Premier, è una ferita che va sanata, ma anche la riforma delle banche di credito cooperativo, del diritto fallimentare, la semplificazione e l'agenda digitale. Critiche dalle opposizioni, basta passerelle, dice Matteo Salvini della Lega, mentre per Maurizio Gasparri di Forza Italia il flop di Ferrari in borsa è colpa di Renzi, iettatore. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E intanto il mercato dell'auto in Italia chiude il 2015 con una crescita del 15,75% rispetto al 2014. E siamo alla crisi tra Arabia Saudita e Iran, è scontro aperto per ora con le armi della diplomazia. Nel pomeriggio Arabia Saudita e il Bahrain hanno deciso di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Iran, che promette vendetta per l'esecuzione, perché tutto è partito da lì, dell'imam Nimr al-Nimr. Ora i sauditi hanno deciso di sospendere tutti i voli da e verso l'Iran. La Russia intanto si propone come mediatrice, gli Stati Uniti chiedono ai due paesi di non infiammare la regione. Tra poco torniamo anche su questo tema, sulle molteplici implicazioni, l'eterna rivalità innanzitutto tra sciiti e sunniti, il ruolo della Russia, quello della comunità occidentale, gli interessi energetici, eccetera. Parliamo di migranti. La Danimarca ha introdotto con effetto immediato controlli temporanei al suo confine con la Germania per far fronte al flusso di migranti. I controlli saranno in vigore fino al 14 gennaio. Ha cominciato la Svezia, l'ha seguita la Danimarca e Berlino avverte Schengen è in pericolo. Nel nord dell'Europa tornano i controlli alla frontiera e il cammino dei migranti diventa sempre più complesso. Concluso l'anno dei record degli ingressi, quello successivo comincia con rinnovate tensioni all'interno dell'Unione Europea e col ripristino dei checkpoint proprio nei paesi destinazione della gran parte dei richiedenti asilo. Documento e foto. Dopo 50 anni la Svezia è tornata a chiedere l'esibizione dei passaporti sul ponte di Øresund, che collega la svedese Malmö alla capitale danese Copenaghen, ponte attraversato ogni giorno da migliaia di pendolari. Le domande di 150.000 profughi hanno spinto Stoccolma verso questa misura che sembra smentire la sua storica politica di accoglienza e che subito è stata imitata dalla Danimarca, che interrompe almeno fino al 14 gennaio la libera circolazione al confine con la Germania. If the European Union can't protect the external borders, finché l'Unione Europea non riesce a controllare le frontiere esterne, dice il premier Rasmussen, ci saranno sempre più paesi obbligati a reintrodurre temporaneamente i controlli. È uno dei pilastri dell'Unione ad essere a rischio. Schengen è in pericolo, avverte Berlino, che indica solo in una soluzione comune europea la soluzione al tema. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora all'estero, Stati Uniti che avviano un'azione legale contro Volkswagen per lo scandalo delle emissioni truccate. Il Dipartimento di Giustizia ha depositato la causa al Tribunale di Detroit, così riporta l'agenzia Bloomberg. Inoltre, gli attesi provvedimenti esecutivi di Barack Obama per rafforzare i controlli sulle armi da fuoco sono attesi per domani martedì 5 gennaio, lo affermano fonti di amministrazione americana citate dai media poche ore dall'incontro nello studio ovale della Casa Bianca tra il presidente americano, la ministra della giustizia Loretta Lynch e il numero uno dell'FBI James Coney. Tra l'altro vedevo un'agenzia di poco fa con ulteriore dichiarazione di Obama su questa stretta sulle armi, che dice: le decisioni sul controllo delle armi che mi appresto a prendere sono pienamente nell'ambito dei miei poteri, coerenti in linea col secondo emendamento sulla libertà di portare armi della Costituzione americana, così ha detto, replicando le accuse di scavalcare illegalmente il Congresso, cioè il Parlamento americano. Uccisa dai narcos, siamo in Messico, appena eletta sindaca, è la storia di una donna appunto in Messico. Gisela Mota aveva un sogno, cambiare il Messico riportandola ai livelli minimi di convivenza civile. La sua battaglia contro i narcotrafficanti era da sempre un bene comune, condiviso dai cittadini di Temixco, che l'avevano eletta sindaco in modo unanime. Gisela, 33 anni, si era candidata in una lista civica di centrosinistra. Durante la campagna elettorale non aveva risparmiato nessuno, i narcos e i loro protettori. Invece la sua idea si è infranta proprio nel primo giorno del suo insediamento. I killer del cartello hanno colpito davanti alla sua abitazione dopo aver ingaggiato uno scontro con la polizia e aver lasciato sul selciato due loro sodali. Oggi il Messico è uno dei paesi più pericolosi del mondo. In 10 anni sono stati uccisi 100 sindaci come Gisela. I narcos del cartello del potere del cane controllano il traffico di stupefacenti di tutto il pianeta. Dove non riescono ad arrivare fanno codi con tutte le mafie. Ma la battaglia di Gisela sembra solo all'inizio. Daniele Biacchesi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo sulle notizie dall'Italia con le donne morte in questi giorni durante il parto. Le autorità sanitarie rassicurano, la ministra della Salute Lorenzin dichiara che l'ospedale Sant'Anna di Torino non ha responsabilità dirette. I primi risultati sui 5 casi di donne morte durante la gravidanza o il parto nelle ultime settimane arrivano dall'ospedale Sant'Anna di Torino. Gli ispettori inviati dal Ministero della Sanità non hanno infatti riscontrato responsabilità dirette del nosocomio torinese nella morte di Angela Nesse e di sua figlia Elisa. Sono ancora in corso invece gli accertamenti della task force del Ministero presso gli ospedali di Brescia, Bassano del Grappa e San Bonifacio, dove hanno perso la vita altre 3 donne. A questi, a cavallo delle vacanze natalizie, si aggiunge un 5° caso, una ragazza di Foggia al 9° mese di gravidanza, morta mentre si trovava nella sua casa. Bisogna indagare caso per caso e verificare che non ci siano stati errori, ha dichiarato il ministro Beatrice Lorenzin. Dobbiamo studiare tutti gli episodi in cui si sono verificate queste tragedie per poterle prevenire laddove è possibile. Sulla questione è intervenuto anche il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. 5 vittime in 7 giorni non possono essere imputabili al caso, ha dichiarato. Mandare gli ispettori negli ospedali non riporterà in vita le donne decedute. L'unica misura utile è la prevenzione. Intanto si sono svolti a Brescia e a Torino i funerali delle 2 donne, Giovanna Lazzari e Angela Nesta, morte insieme ai bambini che portavano in grembo rispettivamente il 2 gennaio e il 26 dicembre scorso. Miriam Coraggia, Radio 24, Sole 24 Ore, Torino. Adesso parliamo dei siriani sospettati di terrorismo in Italia. Hanno detto di essere fuggiti dall'Iran per lasciare la religione musulmana, diventare cristiani e raggiungere Londra per ricongiungersi ai familiari. Questi sono Karim e Shahad El Kunani, fratelli arrestati il 31 dicembre all'aeroporto di Genova mentre stavano partendo per Londra con false carte d'identità belghe. I 2 fratelli siriani, lei 31 anni, lui 24, restano in carcere. L'accusa non cambia ed è relativa ai documenti falsi utilizzati per espatriare. Ma il GIP, che stamane ha convalidato l'arresto al termine dell'interrogatorio nel carcere di Marassi, sospetta che i 2 possano far parte di una cellula terroristica e lo scrive esplicitamente nell'ordinanza di custodia cautelare motivata dal pericolo di fuga. I fratelli siriani smentiscono, raccontano di un lungo viaggio per scappare dal loro paese, interrotto dalla polizia il 31 dicembre all'aeroporto di Genova, dove stavano per imbarcarsi su un volo per Londra. Stefano Bertone è uno dei loro legali. Dichiarano di provenire dall'Iran e di essere andati via dall'Iran per motivi religiosi, diretti a Londra perché volevano convertirsi al cristianesimo e in Iran c'è un'alta percentuale, un alto tasso di persecuzione religiosa, per questo sarebbero fuggiti. Dall'Iran si sono recati in Turchia, dalla Turchia in Grecia, dove a bordo di un barcone avrebbero perso i passaporti iraniani e in Turchia sempre avrebbero preso i documenti belgi. A proposito delle foto di scene di guerra e di mitra trovate su un loro cellulare, i 2 siriani dicono di averle ricevute via WhatsApp da un amico e di non aver mai maneggiato armi. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. E siamo al caso Cucchi e il caso Uva. La sorella di Giuseppe Uva, il giovane che morì in ospedale a Varese il 14 giugno del 2008, pubblica la foto poi rimossa di uno dei poliziotti sotto processo per quella morte. Come Ilaria, voglio solo la verità, scrive. Intanto la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, è stata denunciata dal militare di cui aveva pubblicato ieri l'immagine in un post, poiché dice il legale di questo carabiniere di aver ricevuto minacce di morte. E siamo ai saldi, perché domani 5 gennaio partiranno in Italia i saldi relativi alla stagione invernale. Secondo le previsioni di Confesercenti, la ripresa dovrebbe arrivare e dovrebbe cercare di accrescere, insomma, gli acquisti in crescita rispetto all'anno precedente. L'associazione di categoria Confesercenti però invita i consumatori a essere prudenti, aumenta, dice infatti, il rischio di truffe. Proprio di questo parleremo poi con un ospite più tardi qui a Effetto Notte. Tra l'altro, a Roma si parla anche di un'operazione shopping sicuro, così l'ha definita la Questura di Roma, ha chiamato questo piano di sicurezza antiterrorismo, che entrerà in vigore domani per l'inizio appunto dei saldi. Non ci sono delle minacce specifiche, viene sottolineato, ma polizia e carabinieri intensificheranno la sorveglianza nelle vie degli acquisti. Meteo: il maltempo minaccia lo spettacolo delle stelle cadenti previsto per questa notte, lo sciame delle quadrantidi, così, che ha salutato la Terra, questo sciame all'alba, ed è visibile oggi, insomma stanotte, ma le nuvole a pioggia potrebbero fare da guastafeste. E capiremo per quanto riguarda il meteo che cosa ci aspetta, soprattutto per coloro che ancora, dicevo, stanno facendo il ponte della Befana. Intanto la buona notizia è che è arrivata la pioggia e che nelle grandi città lo smog è abbastanza ritornato sotto i livelli di guardia. Per quanto riguarda il cinema, Quo Vado di Checco Zalone è da record, ha guadagnato 22 milioni di euro in 3 giorni e, stando alle previsioni, sorpasserà anche l'incasso di Star Wars, Il risveglio della forza, che era iniziato nelle sale e debuttato il 16 dicembre scorso. Poi, per chiudere, una notizia di calcio, di cui parleremo anche di questo: il Real Madrid ha esonerato Rafa Benitez, al suo posto arriva Zidane, dopo le indiscrezioni di questo pomeriggio. In serata quindi è arrivata l'ufficialità del cambio di panchina per il club spagnolo. Io direi, vi ricordo semplicemente, prima di questa di aggiornare chi sta viaggiando, qual è l'input che vi la questione che vi sottopongo questa sera è quella dell'iniziativa del Comune di Milano, che ha deciso di fare un bando per le famiglie che vogliono candidarsi a ospitare un profugo. Il rimborso sarà di tra i 350 e i 400 euro, però contrattacca il centrodestra dicendo che è un'iniziativa indegna, che è una mossa di campagna elettorale e che bisognerebbe aiutare i poveri italiani, gli italiani poveri, meglio per dirla più chiaramente. Vedo già alcune vostre risposte sulla pagina Facebook di Effetto Notte e i messaggi al 349 238 6666. Luca scrive: ai mi sa che il Comune di Milano, per trovare i fondi, piazza altri 3 o 4 autovelox, vanno sul sicuro, ma sembra che siano fondi statali comunque, Luca. Poi Alberto dice: io abito con la mia compagna e mia madre in una casa grande, mia madre anziana è rimasta vedova da qualche mese, se ci fosse data la possibilità di ospitare una donna anche con bambino, anche gratis, in cambio magari di dare una mano in casa, lo faremo volentieri, così mia madre avrebbe compagnia, poi se ci pagano ancora meglio, non ci offendiamo, dice Alberto. E poi invece Carmine scrive, numero per i messaggi: sono d'accordo, è un'iniziativa che nobilita chi l'ha proposta e gratifica chi ne usufruisce. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Prima puntata di Effetto Notte di questo nuovo anno 2016. Ringrazio chi mi saluta. Clotilde dice: bentornata, mi dispiace per la sua bronchite, ma egoisticamente sono veramente contenta del suo ritorno. Clotilde, siamo qui. Poi qualcun altro scrive, vediamo. Morena dice: questo riepilogo è veramente utile, complimenti. Meno male, ricordatelo che sempre a quest'ora appuntamento fisso per avere un quadro completo della giornata. E poi a proposito invece degli argomenti di questa sera, dice, scrive Matteo, dice: no, non sono un anziano. E scrive: siamo il paese in cui un film intitolato Quo Vado incassa 20 milioni in un weekend, in cui Renzi governa, in cui Salvini si staglia come alternativa, e abbiamo il coraggio di chiedere conto a Marchionne del suo finora tecnicamente impeccabile lavoro. Lesta guarigione, buon anno. Grazie per lesta guarigione, Matteo da Milano. Continuate con le vostre opinioni al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito dell'iniziativa, vi dicevo, del Comune di Milano di chiedere di creare, insomma, una lista selezionata di famiglie milanesi che possano ospitare dei profughi con un rimborso a profugo di 350-400 euro al mese. E scrive un altro Alberto, questo è una cosa vergognosa, scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ma come, a chi ospita uno straniero 400 euro e a chi ospita un italiano indigente uno zero tondo? Certo che il razzismo esiste contro gli italiani, Roberta, mi trovi lei un paese al mondo che fa così, se ne è capace? Poi vedrò, magari mi documento, Alberto. Intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. La Cina affossa le borse, l'Europa brucia 264 miliardi e Wall Street, c'è stata la peggiore apertura dal 1932, Milano chiude con un meno 3,2%, guerra diplomatica nel Golfo tra Arabia Saudita e Iran e Riyadh sospende i voli con l'Iran e ne parleremo tra pochissimo, Ferrari sbarca a Piazza Affari, Renzi e Marchionne dicono l'Italia c'è e poi è morta, la donna morta in sala parto, gli ispettori assolvono il Sant'Anna, la ministra Lorenzini dice è stata una tragica casualità ma ci saranno verifiche caso per caso. Migranti con Svezia e Danimarca che riavviano i controlli al confine mentre Berlino lancia l'allarme all'Europa. L'accordo di Schengen è in pericolo. Lucia Uva, come Ilaria Cucchi, su Facebook posta la foto di un agente che è indagato per la morte di suo fratello e arriva intanto la denuncia del carabiniere minacciato di morte, postato la sua foto postata da Ilaria Cucchi. Il Real Madrid ha deciso caccia Benitez e promuove Zidane. Cominciamo adesso con gli argomenti, con gli ospiti. Parliamo della grave crisi tra Arabia Saudita e Iran, che è seguita all'esecuzione da parte di Riyadh dell'imam sciita Nimr al-Nimr, considerato dall'Arabia Saudita uno dei suoi principali dissidenti interni, il quale si era battuto per la minoranza sciita di cui faceva parte. Fatto che ha scatenato le proteste iraniane, ci sono state nuove violenze tra sunniti e sciiti, tra l'altro una divisione questa che dura da 14 secoli, come ci spiegherà tra poco il nostro ospite. E intanto c'è la Russia che si propone, come ha fatto sullo scenario siriano, come mediatrice, quindi questo ruolo sempre più importante che la Russia ambisce ad avere come superpotenza. E intanto l'Occidente stesso che cerca di frenare questa escalation della tensione tra Arabia Saudita e Iran, e l'Arabia Saudita che intanto ha deciso di rompere le relazioni diplomatiche con l'Iran, seguita anche dal Bahrain, seguita anche dal Sudan. Ne parliamo con Vittorio Emanuele Parsi, che saluto. Buonasera Vittorio Emanuele. Buonasera. Esperto di geopolitica, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Quindi scoppiata una nuova crisi, come se ne avessimo bisogno, no Vittorio Emanuele? Le implicazioni sono moltissime, dicevo per esempio anche questa, cioè perché l'Arabia Saudita ha giustiziato, come si dice, questo imam? Semplicemente perché era un dissidente, perché faceva parte della minoranza sciita? Perché questa non è una nuova crisi, ma è ascriversi l'escalation di una crisi molto lunga che rimonta perlomeno all'estate dell'anno scorso, quando si stava avvicinando e poi si è realizzato l'accordo sul nucleare iraniano, sì, che l'Arabia Saudita ha fatto di tutto per far saltare, e in questi giorni per farlo saltare ha deciso di provocare l'Iran allo scopo di ottenere una reazione molto violenta per poter additare l'Iran, diciamo così, al pubblico ludibrio e poter incatenare gli Stati Uniti all'alleanza che hanno da 70 anni con l'Arabia Saudita. Perché sappiamo che gli Stati Uniti, ma non solo gli Stati Uniti, anche la comunità, vari paesi europei avevano contribuito da lungo tempo a cercare una soluzione, no, sul nucleare iraniano, cercando di convincere la comunità internazionale che l'Iran in realtà potesse essere in grado di sviluppare, diciamo, un nucleare pacifico, non teso a creare. Diciamo, andando a verificare che l'Iran potesse sviluppare un nucleare pacifico e non un nucleare militare, cioè non è che hanno fatto un'apertura di credito all'Iran, dopo una puntuta analisi hanno stabilito che potesse valer la pena di iniziare un percorso di verifica molto attenta, ma di verifica. Solo questo è bastato per spingere l'Arabia Saudita a cercare in qualunque modo di sabotare questo sviluppo. Perché, Vittorio Emanuele? Perché lo sviluppo riammette l'Iran tra le potenze legittime, per così dire, della regione, e quindi vanifica l'aspirazione saudita a conseguire l'egemonia sul Golfo e sul Levante, operazione a cui i sauditi stanno lavorando da diversi anni, che diciamo le cui premesse sono state gettate con la predicazione salafita in tutto il mondo arabo negli ultimi 2 o 3 decenni. Senti, tra sciiti, che sono una minoranza in Arabia Saudita, di cui faceva parte anche questo imam, e sunniti, che sono la maggioranza, c'è una rivalità in realtà da 14 secoli e più. È vero, la rivalità è di lunga persa, ma la rivalità non ha sempre significato conflitto, scontro, guerra. Nel senso che quando noi arriviamo allo scontro, vediamo quello che succede. La Bosnia-Herzegovina, nel momento in cui c'è stato lo scontro tra le componenti della società, ha prodotto la cantonalizzazione, ha prodotto la pulizia etnica e via discorrendo. Se da 14 secoli ci sono comunità miste, vuol dire che quando qualcuno non investe sulla divisione, trasformandola in odio, quella divisione resta importante, resta potenziale fonte di conflitto, ma non è la ragione delle cose. La realtà è che l'Arabia Saudita da un lato e l'Iran da un lato hanno scelto di investire politicamente su questa divisione per questioni che riguardano le loro ambizioni geopolitiche e riguardano le loro ambizioni finanziarie. In tutto questo, Vittorio Emanuele Parsi, la Russia, così come ha fatto con la Siria, per accrescere sempre più il suo ruolo di superpotenza e ritornare a un ruolo che aveva nel passato, anche qui Putin si è proposto come mediatore, no? tra le due nazioni. I russi sono, per usare un'espressione garbata, dei figli di buona donna, ma giocano bene le loro carte. I russi hanno detto: noi mediamo e in questo modo garantiamo l'Iran, sostanzialmente. A cui ci lega un'alleanza di fatto in Siria, e hanno offerto agli Stati Uniti la possibilità di entrare in questa mediazione sostanzialmente a garanzia dei sauditi. Il problema è che questo fatto, se accettato, implica che il risultato politico più importante dell'accordo 5+1 lo portano a casa i russi e non gli americani, che l'hanno voluto più di tutti. Quello sul nucleare. Dall'altra parte, che su questo accordo si stabilisce che Stati Uniti e Russia sono le due potenze del Medio Oriente. Allora, io non sono così sicuro che l'amministrazione americana sia in grado di accettare questa riduzione delle proprie aspettative. Da qui poi a dire che la situazione sia controllabile è un'altra. Il rischio di un'escalation è altissima, compreso quello di un conflitto tra Iran e Arabia Saudita. Non è una prospettiva imminente, ma sarebbe stupido escluderlo. Da un punto di vista invece degli interessi occidentali, interessi energetici, no? Come è composto lo scacchiere, Vittorio Emanuele? È estremamente mobile, nel senso che tutti abbiamo interesse che la regione sia minimamente stabile, perché un'instabilità regionale provocherebbe non tanto l'aumento o la diminuzione dei prezzi del petrolio, ma un atteggiamento isterico dei prezzi del petrolio. E voi sapete bene che quello che possiamo permetterci è un prezzo alto o un prezzo basso, quello che non possiamo permetterci è un prezzo imprevedibilmente alto o basso. Quindi tutti abbiamo interesse a pianificare, a risolvere questa questione, ma gli strumenti che abbiamo sono estremamente bassi, perché in realtà i sauditi hanno dimostrato che sono disposti a correre il rischio di una guerra pur di buttare fuori l'Iran dal sistema medio orientale, mantenerlo fuori, per così dire. Senti, per chiudere, Vittorio Emanuele, ma diciamo i rapporti di forza quali sono? Mi sembra che l'Arabia Saudita abbia tutt'altra forza e ruolo al momento, no? Anche come alleata fortissima degli Stati Uniti. Sì, gli sauditi hanno delle buone alleanze rispetto ai russi, anche se i russi stanno recuperando. Scusa, i russi, gli iraniani, gli iraniani stanno recuperando. Dal punto di vista militare, i sauditi hanno delle macchine sicuramente migliori in area e sul terreno rispetto agli iraniani, ma gli iraniani hanno un personale che è di gran lunga migliore rispetto a quello saudita. Non c'è paragone tra il livello di acculturazione della società iraniana e quello della società saudita. Siamo dal sole alla luna, intendiamoci. Grazie Vittorio Emanuele Parsi. Ciao Vittorio. Grazie a voi. Ciao, buon anno. Ciao. E adesso, prima di questa piccola pausa di ricreazione, come sempre a questo punto, volevo guardare qualche altro vostro messaggio sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sulla quale potete continuare a scrivere giorno e notte, e gli sms a 349-238-6666. A proposito di questa iniziativa del Comune di Milano, Anna scrive: solo quei populisti del centrodestra possono opporsi all'accoglienza dei rifugiati. Saluti e bentornata, grazie Anna. E poi invece Marco scrive: 400 euro per ospitare un migrante. La sinistra, pur di non aiutare i propri cittadini finiti in braghe di tela grazie alla Fornero, si inventa la solidarietà estera, così che in futuro saranno elettori del PD, mentre gli italiani la canna del gas, non essendo elettori sicuri del PD, meglio evitarli. Grande, dice Marco. Continuate con i vostri messaggi, questo era il 349-238-6666. Ci sentiamo dopo con gli altri argomenti: i saldi, il Benitez esonerato e poi il meteo, mille altre cose. Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri, anche questa settimana grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. La genialità ribelle di uno che vedeva il calcio a modo suo, Eric Cantona. Una grande voce che continueremo a ascoltare a lungo, Giuni Russo. L'uomo che ha insegnato a leggere a tutti quelli che non potevano farlo, Louis Braille. Tra cinema, gioco, donne e avventura, la vita di Omar Sharif. Una vita sfavillante e piena di misteri, Amanda Lear. Tutti i giorni alle 15:30, naturalmente su Radio 24, vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie dal mondo e dall'Italia, come sempre, qui Effetto Notte riprende la prima puntata del 2016. Roberto Giordano sempre con voi, e già avete ricominciato a scrivere le vostre opinioni sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre costantemente lì per voi, e i messaggi anche al 349-238-6666. Fra i tanti argomenti di questa sera, la gran parte, anzi una parte di questi che tratto come sempre con gli ospiti, c'è questa iniziativa invece del Comune di Milano che avevo sottoposto per scrivere le vostre opinioni, che è quella di un bando che ha deciso di indire il Comune di Milano per selezionare e creare una lista di famiglie a Milano che intendano ospitare un profugo o più profughi nella propria abitazione, con un rimborso a profugo di 350-400 euro al mese. C'è chi l'ha saluta come un'iniziativa umanitaria importante, che può anche sollevare lo Stato da costi ben più pesanti, e chi invece, come parte del centrodestra, che accusa la giunta di Milano di fare campagna elettorale, di fare delle scelte indegne e di discriminare in questo modo gli italiani poveri. Cosa ne pensate? Pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666 per i messaggi SMS. Vedo molti favorevoli e diversi anche contrari. E poi anche, ecco, per esempio qui dice Carlo da Pavia, questa è un'affermazione, diciamo, sono delle ipotesi che probabilmente sono da sottoporre all'ospite che ci sarà tra pochissimo. Dice Carlo da Pavia: il consenso su Renzi va sempre più giù. Se introducesse il reddito minimo per gli oltre 4 milioni di italiani alla fame, la produzione aumenterebbe subito del 12%, i consumi del 9%, l'occupazione del 4%, la crisi svanirebbe. Addirittura Carlo ha studiato anche tutte le possibili percentuali come esito di queste possibili iniziative. Poi lo chiederemo tra poco al vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Rioli. Intanto vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, anziché puntualmente alle 21 su Effetto Notte, quali sono le notizie più importanti. La giornata nera dei mercati, la Cina affossa le borse mondiali, quelle europee ripartono con il profondo rosso e per Wall Street il peggior inizio dal 1932. Milano chiude a meno 3,17% nel giorno in cui a Piazza Affari sbarca la Ferrari. La crisi tra Arabia Saudita e Iran è scontro aperto per ora con le armi della diplomazia. La Russia si propone come mediatrice e gli Stati Uniti chiedono ai due paesi di non infiammare la regione. Migranti, Svezia e Danimarca riavviano i controlli al confine. Berlino lancia l'allarme all'Europa, in pericolo l'accordo di Schengen. Lo scandalo Volkswagen e gli Stati Uniti fanno causa al gruppo tedesco. La donna morta di parto a Torino, per la ministra Lorenzin non emergono responsabilità dell'ospedale Sant'Anna. Caso Cucchi, minaccia al carabiniere mostrato da Ilaria Cucchi su Facebook, denuncia così il legale del militare. La sorella di Giuseppe Uva fa come Ilaria. Cinema, Quo Vado di Checco Zalone, da record 22 milioni di euro di incassi in 3 giorni, e per il calcio ufficiale il Real Madrid esonera Benitez, al suo posto arriva Zidane. E adesso parliamo di varie questioni economico-finanziarie, anche dell'andamento dell'Italia in questo 2016 appena iniziato. Ne parliamo con Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Buon anno a te, Alberto. Buon anno a tutti voi, a te, e buonasera. Non è invece stato buono, diciamo, l'esordio delle borse, perché questa è stata una giornata nera e rossa, o rosso-nera per le borse, insomma, senza nessun riferimento calcistico. Nera, diciamo, per la negatività degli andamenti dei mercati, rossa anche perché si dice le borse in rosso, hanno chiuso in rosso. Tra l'altro, fra le altre cose, ha debuttato anche la Ferrari, la rossa per antonomasia. Poi parleremo della ripresa economica italiana, perché Eurostat aveva detto che è praticamente l'eguale continentale del nostro Istat, che la ripresa italiana va molto a rallentatore, e, dicevo appunto, Ferrari. Ma iniziamo da questa giornata di borsa. Alberto Rioli, ci spieghi perché si parla di sindrome cinese? È tutta colpa della Cina? Sì, oggi effettivamente gli listini di tutto il mondo si sono spaventati per il crollo che ha avuto la borsa di Shanghai, che ha perso in apertura 7 punti nel giorno proprio in cui esordiva il meccanismo di freno, per così dire, alle contrattazioni messo in campo dal governo cinese, che diciamolo subito, sta prendendo le misure con una specie di economia di mercato e sta creando una condizione per cui però preferisce avere delle borse che vanno sempre in rialzo e mai, quasi mai in ribasso, diciamo così. Non è che il mercato cinese è liberissimo di fluttuare, e ultimamente il governo cinese ha stabilito che quando l'indice raggiunge un calo del 7% bisogna fare una pausa di 15 minuti per le contrattazioni e poi ripartire, e qualora dopo la pausa di raffreddamento le contrattazioni sognassero ancora un ribasso, la giornata borsistica finisce. E così è stato, perché sperimentato il quarto d'ora di raffreddamento, il mercato ha continuato a perdere, e allora le contrattazioni sono state chiuse in anticipo, e quindi con un grande trauma, diciamo così, poi vissuto sui mercati internazionali. Ma perché è accaduto questo? Perché è uscita la nota dell'indice PMI, quello che dà conto delle aspettative dei manager degli acquisti, che per la Cina ha segnato un indicatore negativo, sostanzialmente un indicatore che conferma l'idea che tutti abbiamo del raffreddamento della grande locomotiva cinese. Ci sono aspettative di crescita che non sono più nell'ordine del 7%, che è il famoso tasso che servirebbe al mondo per tirare un sospiro di sollievo, per avere la fabbrica del mondo e il grande consumatore del mondo che ancora è in piena efficienza, e invece sta intorno al 5,5%, che è poco effettivamente, e soprattutto è il minimo vitale per garantire, diciamo così, la normale dinamicità dell'economia cinese interna, ma non ha proiezioni sull'estero, e questo preoccupa molto i mercati internazionali. Abbiamo una strana condanna, no, a livello mondiale: dobbiamo crescere, crescere, sempre crescere. Per forza, sì, no? Viviamo in questo settore come i criceti che corrono nella ruota. Appunto, così sembra. Senti, ma quando, Alberto Rioli, si dice l'Europa, le borse europee hanno bruciato 264 miliardi, che vuol dire questa espressione? No, questo secondo me è un tic giornalistico che ha poco senso, anche perché quando poi invece li riprende non titoliamo mai, per la verità, le 24 ore non titola mai così, ma in genere chi titola quando i miliardi che si perdono con le flessioni non titola mai i miliardi che si riguadagnano con le riprese, quindi l'oscillazione è, come dire, il sale del mercato, e quindi guai se non ci fossero, obiettivamente. Certo, degli scossoni come quelli di oggi non è che piacciono. Comunque non bisognerebbe dire brucia tot miliardi. Ma non è una cosa che fa effetto giornalistico, ma nella realtà non ha molto senso. Andiamo però alla invece alla situazione, diciamo, in modo circoscritto italiana, no? Sentiamo Renzi, per esempio, che cosa ha detto oggi alla presentazione, allo sbarco della Ferrari in borsa. Io credo che questo sia il momento nel quale l'Italia debba smettere di giocare con gli alibi. Anche in queste ultime settimane leggo in tanti che dicono che la vitalità del nostro paese deriva da fattori esterni. Credo che fattori esterni è il nome che molti danno alla pigrizia, alla propria pigrizia. È un alibi spaventoso dietro al quale si nasconde che cosa? Il tentativo di giustificare le mancanze del passato. E invece, a mio giudizio, se guardiamo i dati di fatto, se guardiamo la realtà, l'Italia finalmente c'è. Così ha detto Renzi, però Eurostat, proprio ieri, che è l'equivalente del nostro Istat, dicevo, a livello europeo, ha detto che la crisi dell'Italia è più lunga e più dura di quanto ci si aspettasse, e di altri paesi europei. Tra l'altro, la produzione industriale italiana figura tra i paesi messi peggio, e anche per l'occupazione giovanile. Quindi No, beh, come sempre in questo caso il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, ma insomma dipende da come lo si vuole guardare obiettivamente. Ci sono dei parametri molto grossi che sono quello dell'occupazione, quello del debito pubblico e quello della crescita del PIL che ancora ci allontanano dall'Europa. Il debito pubblico ha una dinamica che è superiore a quella degli altri paesi e difficilmente potrà essere riassorbibile in tempi molto rapidi. Il PIL sta crescendo, sì, abbiamo visto che stiamo esultando per lo 0,6, lo 0,7 e forse lo 0,9, chissà infine in ragione con l'ultimo trimestre, ma probabilmente no. E invece è una crescita che non è assolutamente sufficiente a creare occupazione. Sono stati creati 300.000 posti di lavoro in più e questo è un bel dato, è importante, ma sono state anche profuse molte risorse per studiare i sistemi come la decontribuzione e normative e riforme importanti come il Jobs Act e l'archiviazione parziale dell'articolo 18 che dovevano essere fornire una grandissima spinta al mercato del lavoro e forse hanno fornito sì una spinta ma non così eclatante come ci si aspettava, come io stesso mi sarei aspettato francamente in ragione d'anno. Quindi, come dire, i limiti strutturali del nostro paese ancora ci sono tutti, certo abbiamo grandissime eccellenze, siamo la seconda manifattura d'Europa, abbiamo un settore industriale che traina tutta la ripresa del paese da tempo sostanzialmente, certo abbiamo tutta la parte della pubblica amministrazione che deve essere messa a regime, deve essere degna appunto di quell'altra metà del paese che sta tirando tanto la carretta obiettivamente. Senti, sentiamo Renzi che cosa ha detto a proposito di quella che è l'agenda del governo italiano 2016. La politica deve fare molto anche nel 2016, penso alle banche di credito cooperativo, alle società partecipate da ridurre, al diritto fallimentare che deve cambiare, alle autorizzazioni, alla semplificazione, all'agenda digitale. Abbiamo moltissimo da fare, ma con la consapevolezza che l'Italia c'è. Così Renzi, e poi invece sulla quotazione della Ferrari, diciamo che si dà un po' di merito così come fa su altre cose, sentiamo. In bocca al lupo a Sergio Marchionne, grazie per aver accolto l'invito di quotare anche a Milano, magari ci aveva già pensato lui da solo immagino, ma nel corso di viaggio in macchina con Marchionne ed Elkan a Melfi in uno straordinario stabilimento. Nello straordinario stabilimento avevamo chiesto nel discutere tre cose. La prima di sfruttare il 2015, il Jobs Act fino in fondo e le ultime assunzioni a Chieti ne sono la dimostrazione. La seconda di non dimenticare Ilva e l'acciaio di quella straordinaria realtà e anche su questo ci sono stati segnali importanti. E il terzo di poter quotare anche a Milano, alla Ferrari. Credo che questo gesto sia stato un gesto molto bello, molto importante. Credo che debba essere seguito anche da altre realtà, almeno questo è il mio auspicio, che sono quotate fuori dal nostro paese. E quindi meno male che Renzi c'è, verrebbe da dire. Senti, per chiudere, Alberto Rioli, c'è un ascoltatore che scrive Filippo da Belluno. Secondo me la quotazione è un male per l'italianità della Ferrari. La compreranno, come è successo con Pirelli e molte altre. Beh no, francamente no, nel senso, vabbè, Ferrari è già quotata a Wall Street, si quota anche in Italia per confermare l'ulteriore radicamento con il paese a cui appartiene, francamente a cui appartiene la sua storia e il suo mito. Il peccato è che il giorno dell'IPO ha coinciso con questo crollo planetario dei mercati e degli listini azionari e quindi sicuramente non ha consentito alla rossa di Maranello di spiegare tutto il rombo del suo motore, diciamo così, quindi ha aperto a 43 euro, ha chiuso a 43,7, per carità, un piccolo incremento positivo in una giornata così negativa, tra l'altro vale ben più che il doppio effettivamente, però è sostanzialmente in pari con l'ultima seduta di Wall Street che quotava il corrispettivo di 44 euro, ecco, grosso modo non si è mosso nulla, ecco, non è una giornata che ha un particolare valore, diciamo così, tecnico borsistico obiettivamente, perché c'è stato questo sconquasso cinese che ha molto condizionato gli andamenti, però il segnale, come dire, di politica finanziaria è indubbiamente molto rilevante e invece bisogna salutare favorevolmente quando un'azienda decide di quotarsi nella borsa principale del proprio paese. Salutiamo favorevolmente allora, salutiamo favorevolmente anche a te, Alberto Rioli. Grazie. Alla prossima. Ciao Alberto. C'è la viabilità, però prima volevo guardare ancora qualche vostro altro messaggio sulla pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666, sempre a proposito dell'iniziativa del Comune di Milano sui profughi nelle famiglie. Scrive Stefano che dice il Comune con il signor Pisapia aiutassero i poveri barboni milanesi per primi. Poi invece Luca, no, questo l'avevo già letto, quello di Luca, è Maurizio che dice: è un'idea infelice, si ospita questa gente per 6 mesi o per 1 anno e poi cosa si fa? C'è un progetto, la possibilità che trovino un lavoro, che possano riformare, ritornare nelle loro terre, la solita improvvisata senza capo né coda. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Proseguono i vostri messaggi sempre su questa questione dell'iniziativa del Comune di Milano, che potrebbe avere un seguito se viene apprezzata, se avesse successo, se risulta utile. Veronica però scrive: è una proposta pericolosa, scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Come garantire che non si speculi sugli immigrati? Come garantire che le case o gli appartamenti siano idonei? Chi controlla? Quanto costa? E come seguire l'integrazione di una famiglia culturalmente diversa con un'altra? Pensiamo per esempio a quante convivenze tra badanti e famiglie italiane finiscono male anche per motivi di incomprensione reciproca, eccetera. Molto lungo il messaggio di Veronica, questa è la sua analisi. Tra pochissimo parleremo anche di una questione, una notizia piuttosto di primo piano, di calcio, però vi ricordo anche quali sono le notizie più importanti, giusto per fare di nuovo il punto della situazione. La Cina affossa le borse, l'Europa brucia 264 miliardi, che abbiamo capito che non è poi un'espressione così corretta. Wall Street, peggiore apertura dal 1932 e Milano chiude con un meno 3,2%. Guerra diplomatica nel Golfo tra l'Arabia Saudita e Iran, con Riyadh che sospende i voli con l'Iran e poi con la Russia che si propone come mediatrice, la Casa Bianca che chiede di frenare questa escalation di tensione. Ferrari a Piazza Affari, ne abbiamo appena parlato, Renzi e Marchionne insieme che dicono che l'Italia c'è e riparte. Morta in sala parto, gli ispettori assolvono il Sant'Anna, la ministra Lorenzini dice è stata una tragica casualità, ma le verifiche verranno fatte caso per caso. A proposito di migranti, Svezia e Danimarca riavviano i controlli al confine, mentre la Germania, Berlino, lancia l'allarme all'Europa dicendo che Schengen, l'accordo di Schengen della libera circolazione delle persone, è così in pericolo. Lucia Uva, sorella del giovane che morì in un ospedale di Varese il 14 giugno del 2008, come Ilaria Cucchi, posta su Facebook la foto di un agente che è indagato per la morte del fratello e arriva intanto a Ilaria Cucchi la denuncia del carabiniere che dice: sono stato minacciato di morte. In Real Madrid ha deciso caccia Benitez e ora ne parliamo. Quindi, caro Giovanni Capuano, è ufficiale, Benitez così licenziato in tronco, ci è rimasto piuttosto male, mi sa. Se lo meritava? Ma sì, se lo meritava, nel senso che non aveva mai legato con l'ambiente, non aveva mai legato con lo spogliatoio, non aveva mai espresso un calcio di quelli che piacciono a Madrid, dove sono particolarmente esigenti, un po' come gli appassionati di musica classica e musica lirica che vanno alla Scala, e quindi complessivamente se lo è meritato, anche se poi in assoluto ha perso 3 partite su 25, ha fatto molto bene fin qui in Champions, era leggermente attardato in Liga, ma nulla di assolutamente compromesso, e quindi fondamentalmente non c'erano i presupposti numerici per l'esonero. Però questa era una decisione di fatto già presa, Benitez era a rischio da più di un mese e si aspettava soltanto l'occasione giusta perché capitasse. L'occasione giusta è stata il pareggio di ieri sera a Valencia per 2-2 con il Real Madrid, 2 volte in vantaggio e 2 volte raggiunto anche con situazioni difensive al limite dell'imbarazzo. Quindi oggi c'è stata la riunione e la scelta di sostituirlo con Zinedine Zidane, che è già stato il vice di Carlo Ancelotti, quindi con il Real Madrid e sulla panchina del Real Madrid ha vinto la 10ª Champions League della storica del club, però è praticamente un debuttante perché fin qui ha allenato il Castilla, che è la squadra B del Real Madrid in Serie B, nella Serie B spagnola, perché in Spagna funziona così, e tra l'altro l'ha fatto anche senza grandissimi risultati, quindi è un'incognita assoluta, però è la carta che Perez si gioca. Perez, presidente del Real Madrid, contestatissimo da quest'estate proprio per la decisione di mandare via Carlo Ancelotti, che invece era molto amato sia dal pubblico che dallo spogliatoio, 6 mesi dopo questa decisione gli è tornata indietro. Quindi uno che manda via abbastanza velocemente, insomma, questo presidente del Real Madrid. Sì, uno che manda via abbastanza velocemente, così come è uno che molto facilmente apre il portafogli per delle campagne acquisti faraoniche. Ora è difficile che a gennaio Zidane chieda qualcosa e arrivi qualcosa, però aspettiamoci che Zidane, se sopravviverà sulla panchina del Real Madrid o chi per lui a giugno e luglio, abbia poi un mercato importante, anche perché a Madrid stanno cambiando tante cose e magari quest'estate potrebbe anche essere l'ultima estate di uno come Cristiano Ronaldo, che ha scritto lui anche lui una pagina importante della storia del Real. Già, grazie Giovanni Capuano, buon anno anche a te. Ciao Giovanni. Grazie a te, buon anno. E sarà un buon anno per i saldi, un buon inverno. Intanto ci sono già alcune regioni che sono partite con i saldi dal 2 gennaio, no? La Basilicata, la Campania, la Sicilia, Valle d'Aosta. Domani, 5 gennaio, il via ufficiale di saldi invernali 2016 in tutte le altre regioni. Però bisogna stare attenti, in certi casi si possono fare, per carità, degli ottimi acquisti, però la truffa è sempre un po' dietro l'angolo. Ne parliamo con Roberto Usai di Altro Consumo. Buonasera Usai. Sì, buonasera a tutti. Che cosa possiamo consigliare a chi è ai blocchi di partenza, pronto con il portafoglio a correre presso le vetrine, i negozi che espongono i saldi da domani, insomma in tutte le regioni, abbiamo detto in tutta Italia? Cosa bisogna tenere presente? Sì, allora sicuramente quando possibile noi consigliamo sempre di fare un giro nei negozi uno o due giorni prima dell'inizio dei saldi, proprio per verificare sia la merce che ci interessa acquistare che il prezzo iniziale, in modo da poi confrontarlo con lo sconto che verrà poi applicato. Quindi è meglio se si è adocchiato qualcosa prima e si sa quanto costava. Sì. Poi sicuramente diamo un occhio al cartellino, perché il cartellino deve sempre indicare il prezzo vecchio e con quello ripassato, in modo da rendere insomma evidente quello che è lo sconto applicato. In caso di dubbi noi diciamo sempre, chiediamo chiarimenti all'esercente, che è tenuto a chiarire insomma eventuali perplessità del cliente. Anche se è vero, perdoni Usai, che uno può anche scriverlo lì al momento quando decide di fare lo sconto, no? Un negoziante, dico per carità, non voglio fare l'avvocata del diavolo, però scrive certo. No, prezzo precedente, facendo finta che sia precedente, quello invece attuale. Però diciamo che per la maggior parte dei casi dovrebbero essere iniziative, mosse oneste queste, no? Sì, diciamo, poi la malafede insomma esiste, però insomma non è... È meno diffusa magari di quanto si possa pensare, basta appunto rispettare, tenere conto di alcune regole. Bisogna, sì. Tra l'altro, quando si dice che il capo in saldo, il capo d'abbigliamento, le scarpe, eccetera, in saldo non si possono riportare indietro, questa cosa è vera? Sì, questa è un'indicazione sbagliata, perché comunque sia saldo che non saldo, innanzitutto la garanzia viene applicata, quindi anche a livello europeo sono 2 anni, quindi se il prodotto presenta difetti di conformità, quindi parliamo di difetti di fabbricazione, l'esercente è tenuto a ritirare l'oggetto e a darci un indennizzo, quindi un rimborso, oppure a effettuare un cambio. Solo se c'è un difetto o anche per esempio se lo si è regalato a una persona, quella persona non corrisponde in quel caso taglia. A differenza dei negozi online, dove comunque il reso e il cambio sono obbligatori, nei negozi fisici in realtà è facoltativo, quindi è a discrezione del commerciante. E per questo noi raccomandiamo sempre, quando si acquistano prodotti nei negozi, di chiedere direttamente all'esercente chiarimenti su eventuali cambi o resi, insomma quanti giorni abbiamo a disposizione per effettuare un cambio. È vero che qualche volta qualche negoziante dice no, non si può, il saldo non si può pagare con la carta di credito col bancomat. Anche questa è un'indicazione sbagliata, nel senso che se l'esercente aderisce a un determinato circuito di pagamento, quindi parliamo di carta di credito, è assolutamente tenuto ad accettarla sempre, quindi anche nei periodi di saldi non fa alcuna differenza. Qualcuno consiglia un po' diciamo saggiamente o maliziosamente di non in realtà portare carte di credito o bancomat, ma di farsi un budget in soldi contanti, così non si corre il rischio a volte di comprare il capo d'abbigliamento o un altro oggetto insomma solo per lo sconto, no? A volte si è invogliati dallo sconto di riempirsi di cose che magari poi invece non sono utili, non sono quelle che volevamo. Sì, anche questa potrebbe essere una strategia, poi insomma i sistemi di pagamento sono talmente variegati che ognuno poi ha insomma il suo preferito, per cui in questo noi non ci sentiamo di dare dei consigli. Sicuramente per quanto riguarda ad esempio le carte revolving, ma questo è un consiglio che diamo un po' a prescindere dai saldi, è un prodotto che generalmente tendiamo a sconsigliare semplicemente perché i tassi applicati spesso superano veramente cifre esagerate, spesso superano anche il 20%, quindi capiamo che è un prodotto decisamente non conveniente. Direi che ci siamo detti più o meno tutto, Roberto Usai, di altro consumo. C'è qualcos'altro? C'è un'altra indicazione che vuole dare? Insomma, le indicazioni che possono sembrare scontate, però insomma, sempre ricollegandoci al fatto del cambio del reso, che sono facoltativi, sicuramente noi raccomandiamo di controllare che i capi siano sempre in buone condizioni e provare i vestiti, quindi non comprare alla cieca, insomma, andare più o meno a colpo sicuro, perché come dicevamo poc'anzi, insomma, il reso o il cambio non è facoltativo. Quindi occhi aperti e con discernimento. Grazie Roberto Usai, buon acquisto e buon anno. Grazie anche a voi. Grazie. Ed è tempo di sentire che tempo farà con il nostro ritrovato Paolo Corazzon di Trebi Meteo, il nostro portatore sano di sole. Paolo, però buonasera. Mi Roberto, sembra che qui di sole ormai... mettiamoci un po' il cuore in pace, ma insomma era anche giusto che in qualche modo la situazione cambiasse, ci siamo lasciati nel 2015 dopo mesi di calma piatta, praticamente ora situazione molto più movimentata con i suoi pro e i suoi contro, in primis l'inquinamento che finalmente sta diminuendo, però appunto anche precipitazioni, quindi purtroppo tra domani e dopo in molte zone d'Italia ombrello a portata di mano, anche l'Epifania soprattutto al centro-sud sarà molto variabile e instabile. C'è da dire però, Roberta, che nelle regioni centro-meridionali, nonostante queste piogge, non si sta per niente male. Pensa che al centro-sud si toccano ancora i 14-15 gradi, quindi ben oltre la media. Invece al nord, temperature decisamente più basse, qui il freddo ormai è arrivato e difficilmente ce, ce ne andrà. Esatto, e ce lo terremo, ma con poche precipitazioni. E se mai qualche fiocchettino ancora domani, ma poca roba per la verità. Senti Paolo, nel lasciarci, non so se possiamo fare previsioni così a lungo raggio, ma è vero come diceva qualche giorno fa il Centro di Meteorologia Britannico che il 2016 sarà anche più caldo del 2015? Guarda, il rischio c'è, il 2015 ha battuto vari record, varie stranezze nel 2015, ce ne siamo accorti anche noi, ma la tendenza è quella, quindi in realtà la preoccupazione per gli anni futuri è che anno dopo anno avremo sempre temperature più alte, anche qua con molte conseguenze, quindi non sono cose campate in aria, quindi temo che il 2016 ci riservi altre brutte sorprese sotto questi punti di vista. Paolo Corazzon, comunque sia, buon tempo a te e buon anno anche a te. Grazie, a presto. Buon ciao tempo Paolo. A tutti. Ci risentiamo alle 22.